Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono morto da solo, sono morto con te. E hai comprato per poco la mia voglia di credere. Quando poi ti vedo camminare per la strada con il fare irriverente di chi ha smesso di soffrire, con la convinzione tua di spiegarmi come vivere, poi mi rubi l'aria, aria, aria, aria. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Certezza alcuna, punti fermi non ne ho. Mi trovi tra nebbia di un presente da scoprire. Sono come spazzatura, quella che tu butti via. Rifiuto il tuo rifiuto, qui non è differenziare. Non vedo tanta colpa nell'errore, tanto orgoglio nel sapere. Sali pure sulla scala del valore, quella che è etichettato come valida. Una struttura solida ti porterà dal basso di una vita senza lume. Segui mode di costume, quanti giorni persi al centro commerciale. Non ho ancora capito bene, bene, bene, bene, bene dove arriverà. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Sono il re degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità. Non aver capito è la sola verità. Non aver capito è la sola verità. Non aver capito è la sola verità. Degli stolti, il re, il sovrano di tutti voi, il signore di chi ha capito che non aver capito è la sola verità.